parlo con la Zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora, caro Parenzo, la prima cosa che voglio dire questa sera è che devo fare mea culpa. Beh, ragazzi, oh, quando ci vuole, ci vuole. Nei giorni scorsi, mea culpa ovviamente per una cosa che ho detto, per una cosa che ho sostenuto nei giorni scorsi. Abbiamo parlato dello scioglimento del Comune di Roma, della proposta che è stata fatta all'inizio dai 5 Stelle e diciamo la verità, io ho preso per il culo Di Battista, ho preso per il culo quelli dei 5 Stelle che proponevano questa cosa. Invece devo ammettere che dal punto di vista politico, poi non so se si farà, a mio avviso non si farà, dal punto di vista politico è una proposta che ci stava tutta. Cioè c'è un'infiltrazione, se tu vai a vedere, un'infiltrazione nei gangli da parte di questa presunta cupola mafiosa, nei gangli dell'amministrazione comunale. Lasciamo perdere i politici che una volta ci sono, una volta non ci sono, ma nei gangli dell'amministrazione comunale, alti dirigenti, burocrati, eccetera eccetera. Dunque io non so se si farà, queste sono cose burocratiche, c'è la trafila eccetera, però dal punto di vista politico proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di Roma e dunque la caduta del sindaco, il commissario, quello che è, politicamente non è una proposta così assurda. E dunque devo chiedere scusa a chi l'ha proposta per la presa per il culo che c'è stata nei giorni scorsi. Questa qua è una cosa che voglio dire, perché quando ci vuole ci vuole. A proposito di Marino, beh, amico mio, Marino ha detto un po' di bugie nelle ultime ore, ha detto un po' di fesserie. Perché, beh, no, le ha dette, sì, lo so che sei a Londra, non sei un cazzo, ma parlo da solo, tanto è meglio. Allora, no, ho letto tutto l'ordinanza in aereo. Sì, guarda, sì, sì, ma l'ordinanza, ma che vuol dire l'ordinanza? Aspetta un attimo, Marino ha detto di non aver mai parlato, di non aver mai parlato con Buzzi che è l'ex Galeotto, che è diventato ricchissimo poi negli ultimi anni, gestendo sostanzialmente le varie emergenze, nomadi, immigrati, casa, eccetera. Marino. Non ha mai avuto sospetti su questo Buzzi. Non ho anche avuto mai conversazioni. So che da quello che ho capito, so che dall'indagine addirittura quando non si riusciva a liberarsi di questo Marino, che era un ostacolo per tutti, faceva pressioni dicendo bisogna che lo fate cadere, se siete persone serie dovete togliercelo di mezzo perché sennò non si può andare avanti. Con Buzzi non ho mai avuto conversazioni. Beh, caro Marino, ci sono delle foto che ti immortalano insieme a Buzzi mentre parlavi amabilmente durante la visita in un campo, e anzi la visita alla cooperativa dello stesso Buzzi. Per cui, adesso, per carità, uno non si può ricordare tutti gli incontri che ha fatto. Però c'è un altro elemento importante, anzi due elementi importanti. Il primo, Alemanno, che certamente non è esente da colpe in questa vicenda, anzi è incriminato per reati gravissimi. Indagato. Certo. No, nel senso, non è indagato. Nel senso che adesso va in televisione e parla degli altri come se lui non c'entrasse nulla, no. Dice per esempio di Marino che il primo stipendio che Marino ha ricevuto lo ha dato proprio alla cooperativa di questo Buzzi, che sarebbe a capo della cupola criminale. Il primo stipendio, ovviamente non poteva sapere chi era Buzzi. No, comunque quello è. Il sindaco Marino all'inizio del suo mandato ha voluto fare un gesto di liberalità e ha detto il mio primo stipendio lo do a qualcuno che si impegna nel sociale. Sì. Lo sa chi l'ha dato? No, non mi dica Buzzi. A Buzzi. No. curioso, diciamo che un altro sindaco, diciamolo pure Parenzo, un sindaco di destra, un sindaco di una città di destra, un sindaco leghista, un sindaco di Forza Italia, un sindaco del PDL, un sindaco sarebbe stato, tu immagina, un sindaco che dà il primo stipendio a una cooperativa barra società che poi viene indagata, il cui fondatore, il cui gestore viene indagato per associazione mafiosa. Tu pensa quello che potevano dire, eppure nessuno dice un cazzo. Su questo hai perfettamente ragione. No, aspetta, c'è un altro elemento. C'è un altro elemento. È vero che nessuno dice un cazzo. Beh, insomma, su Marino adesso viene glorificato. Ma comunque lasciamo perdere. C'è un altro elemento. Metà della campagna elettorale di Marino, più di metà della campagna elettorale, viene finanziata sempre da questa cooperativa di Buzzi. 30.000 euro su 60, una cosa di questo tipo. Ma allora, ragazzi, su. Allora, Alemanno, torniamo su Alemanno. Senti questa cosa qui, ho chiesto ai miei collaboratori se hanno legami con i mafiosi, ti giuro, ha detto così. Secondo te che cosa hanno risposto questi qua? Secondo me hanno risposto no. Questo sentiamo. Non credo. Io ho chiesto a tante persone, non solo a quella, a tante persone, a ognuno dei miei collaboratori, ma voi avete contatti con queste persone? La risposta è sempre stata no. Vedremo tra poco. Al questore ho chiesto se c'era la mafia a Roma. Quando a Roma sono cominciati a venire dei fatti di criminalità grave, tipo omicidi, gambizzazioni, io ho fatto il giro di tutti quanti i vertici istituzionali, ho chiesto: c'è la mafia a Roma, sta arrivando la criminalità organizzata? La risposta è sempre stata no. Il questore, il capo dei carabinieri, la procura mi hanno sempre detto non c'è nulla, ci sono soltanto bande territoriali in conflitto tra di loro. Cioè lei è andato? Sono andato, ho chiesto, ho posto queste domande, la risposta è sempre stata no. Vabbè. Allora, abbiamo già Vittorio Sgarbi in collegamento da Urbino, da oggi ha presentato una mostra molto importante, caro Vittorio. Vittorio, ci sei? Allora, stiamo inaugurando la mostra della bella principessa Leonardo a Palazzo Ducale in questo momento, ma insomma c'è ancora qualche minuto. Allora, aspetta un attimo Vittorio, ti aspetto un secondo. Vi faccio sentire invece una cosa molto grave che è accaduta ieri sera ad Anno 1, ed è la minaccia, tra virgolette, di Vauro a Storace. Vauro dice a Storace, insomma, fino adesso dirò ai compagni di mirare meglio la prossima volta, perché Storace ha detto di essere stato oggetto di attacchi da parte dell'estrema sinistra quando era più giovane, eccetera. Gli anni di piombo io l'ho vissuti, erano anni di piombo davvero. La gente che oggi è inquisita sparava quel piombo in quegli anni. Quel piombo e le stragi, a me hanno sparato, ho avuto la fortuna che i tuoi compagni non mi hanno ammazzato, hai capito? La prossima volta le dirò di mirare meglio. Capito? Ma guarda che personaggio. Questa è ovviamente una battuta, stavo cercando di fare un discorso semplicissimo, guardando Mirko, quando perché tu sai sangue, che non siamo molto sangue, in sintonia. Sei un delinquente. Allora voi avete offeso i vostri stessi ragazzi. Poi ha chiesto scusa dicendo che dicendo che era una battuta, eccetera. Ha detto sì, questo ovviamente è una battuta, di cattivo gusto, una battuta che gli è venuta spontanea, evidentemente. Vittorio, io voglio capire una cosa, siccome tu quando eri Vittorio. No, ma facciamo io solo entrare, quindi facciamo solo l'entrata. Io quelli che sì. Vittorio, con chi stai? Sempre con le donne stai intorno. Ma sì, no, sto inaugurando la vostra, che voi potete dire che questa visione è completamente priva di senso. Cosa? Quando capitano delle cose piene di senso. C'è la vita, non è la radio. Voi ormai avete rovinato il mondo. Ma che abbiamo rovinato? La vita è quella che si fa. Sì, appunto, quindi è questa, inaugurare una bellissima mostra. Sì, ho capito. Allora, stavo dicendo che quello che ho detto, ovviamente determina il solito allarme sociale che è giustificato per Roma, ma mi auguro che non avvenga a Roma quello che è avvenuto a Salemi, cioè che venga sciolto per mafia. Ah, ecco, quello volevo chiederti, ma secondo te... Mi auguro di no, perché su sbagliato sciogliere il mio, senza alcun indagato, alcuna inchiesta, semplicemente su un, come dire, maldicenza che investe una città perché era la città dei cugini Salvo. Io ero stato garantito, ce lo facevano per tutelare me, ma io non ho bisogno di tutele da magistrati o prefetti ignoranti e incapaci. Allora, non so come vada a finire questa, ma l'idea della tutela per cui si scioglie un comune è un'idea moralistica, e Roma ha bisogno di un vero sindaco, semmai si torni a votare. Ma commissariare Roma, come qualcuno proposto, i 5 Stelle, è suggestivo, perché sarebbe la dimostrazione coerente Inauguriamo di qua, facciamo tutto il no, giro però qui. Scusami Vittorio, io voglio capire una cosa. Secondo te, basandoci naturalmente sulle cose che sono uscite fuori, c'è un'infiltrazione forte all'interno del Comune di Roma, no? A livello anche burocratico, di alti dirigenti, di una presunta cupola criminale. Siccome il comune che hanno sciolto Salemi, dove tu eri sindaco, è stato sciolto credo per molto meno, no? Rispetto per a queste niente, cose. No, per niente, era semplicemente una suggestione di un passato, l'ultimo sabato del voto del 92, che determinava il sospetto rispetto ad alcuni semplicemente politici locali. Ma a questo modo potevi sciogliere Palermo, potevi sciogliere Castelvetrano. Vabbè, e dunque Roma, quindi, paradossalmente, usando lo stesso metodo, andrebbe sciolta. È il criterio che è sbagliato, è il principio, perché lo scioglimento è profondamente antidemocratico, è un modo per dire non c'è una democrazia che è in grado di sostenere le ragioni dei cittadini, occorre un commissario. Certo, con tanti sindaci coglioni il commissario servirebbe per quando sono ignoranti, ma inventare che il crimine rende una città nelle condizioni di dover essere purgata, ripulita, è una cosa moralistica, per cui è un errore se oggi le Salemi rispetto ai contenuti, ma lo è sempre rispetto il fatto che la città comunque deve trovare gli anticorpi. Scusa, però se il sindaco, sì, d'accordo, tu hai ragione, però il sindaco in questo caso, il sindaco Marino, ha ricevuto finanziamenti da questa associazione che poi adesso si scopre essere come dire una specie di cupola mafiosa. Poteva non saperlo ovviamente. L'altra cosa che è uscita fuori è che addirittura il suo primo stipendio l'ha donato a questa associazione. Cioè, voglio dire, ci sono degli elementi tali per qua, vediamo questo. Sì, dai. Finisci, dai. Allora? Sì. Andiamo? Andiamo? Andiamo? Vittorio? No, dicevo, quello che stai dicendomi riguarda delle cose prese intenzionali. Ora, è evidente che se sciolgono il comune, così come è accaduto nel caso mio, noi che siamo arrivati dopo non c'entriamo niente. Ma io non voglio essere garantito da una legge astratta che senza degli elementi di certezza, perché siamo ancora nella fase indiziaria, c'è un sospetto, c'è un comune, è ora di finirla, cioè è sbagliato concettualmente, quindi andiamo di qua. No, ma ho capito perfettamente. Senti, dimmi un'ultima cosa, ma questi qua che non ti vogliono far fare la mostra a Bologna, chi sono? No, ma quello no, questi sono già morti, ho già dimostrato. Come morti? Che vuol dire morti? Sono morti perché dicevano delle scemenze. Il dipinto di cui parlano di Raffaello è andato 2 anni fa a Parigi e Madrid e non ha detto assolutamente niente. Chi è quello che critica? Com'è che si chiama? È un poverino che lavora per i mercanti. Come lavora per i mercanti? Sì, lavora per i mercanti, lui ha il soldo di una galleria che si chiama Fondo Antico e fa perizie mentre fa il professore universitario i dipinti che sono sul mercato. Siccome di Carranti, ma chi è Benati? Si chiama Benati. Sa molte cose, sa tutto, non può non sapere che è stata esportata decisamente una Madonna, è stata venduta a Doroteum di Vienna, a casa d'arte, nell'ottobre del. Per cui perché 2013. Fa questa polemica con te questo qua? Ma perché voleva fare la mostra lui, cioè non è una polemica, sono 130 scimmie che firmano senza sapere niente dall'America, dal Canada, sullo stivolo di uno che dice i quadri non si devono muovere dai musei. Benissimo, peccato perché fossero morti e si muovono continuamente. Quindi è una totale cosa senza fondamento, è un poverino, un povero disperato che voleva fare lui la mostra, avere lui l'incarico, e gli ho scippato, lo scrive bene Barilli, gli ho scippato, si poteva entrare, ma tanto questo ce la vedo. Cioè gli hai scippato l'incarico? L'incarico, ma nel senso che io ho polemizzato con Goldin, la sua ragazza dall'orecchino di perla, una cosa delle meraviglie di Bologna, eccola qui, le meraviglie di Bologna sono alcune cose meravigliose sconosciute e alcune cose meravigliose nei musei, ne vengono 4 della Pinacoteca Nazionale di Bologna, che tra l'altro ha restauri che interessano la sala in cui c'è Raffaello. Quindi non sarebbe. Ma quando dici che è un mercante, che vuoi dire che questo è un mercante? Chi è? Con i mercanti, prende soldi per le perizie, prende soldi attraverso le considerazioni che fa sui dipinti e ovviamente ha dei rapporti con mercanti che vengono a trasferire all'estero. Questo naturalmente per chi difende il patrimonio artistico è abbastanza singolare. È abbastanza singolare, perché non ha protestato quando è stata venduta a Vienna un'opera di Carracci che proveniva dall'Italia o un'opera di Perin del Vaga che veniva dall'Italia? È una serie di cose che sono evidentemente gravi, ma di cui lui non si è occupato, perché questa cosa non era quello che lui diceva. Tanto più che io porto anche all'Expo l'opera primaziale di Tito, la scultura di Giovanni Pisano, perché il museo è chiuso. Ora il museo di Bologna nella sala di Raffaello non è agibile perché fanno i restauri. Vabbè. È un discorso senza senso, cioè. Senti, un'ultima cosa, un'ultima cosa, mi sembra che la nostra candidatura di Muti sia definitivamente finita, perché quella di Muti è finita perché lui ha detto di non essere. Lo ha detto perché non ha avuto la forza Renzi di dire quello che forse Renzo Piano, secondo te? No, no, Renzo Piano ha un colore politico più forte e non ha una dimensione universale come quella di Muti. E d'altra parte ha uno studio che fa 62 milioni di euro all'anno, ti pare che va a fare il vabbè, tanto li fa lo stesso, 62 milioni, fa il senatore a vita, sai che gli frega. Vabbè, ciao Vittorio. Venite a Urbino, c'è la bella stessa, poi verrete anche a Bologna. Ciao, ciao caro. Ciao. Luca da Mantova, veloce, vai. Ciao a tutti, allora una provocazione, proprio una provocazione. Io farei una marcia su Roma, ma non una cosa ideologica, politica, che non me ne frega niente della politica. Cioè si va là tutti in modo trasversale, senza violenza, si va giù, si va si accerca il Parlamento in modo civile. Ma che c'entra il Parlamento? Sei una fava, te e tutto quello staff di merda, la radio schifosa marcia di quelle zanzare morte. Sei ancora a casa, Simo? Mentre Roma è in preda alla cupola e all'inchiesta, beh, il nostro amico, l'europarlamentare Buonanno, ha creato una felpa con il suo nome. Buon anno. E così si è presentato negli studi di Mediaset. Sentite. Che felpa si è messo, Buonanno? Mi ha regalato un amico, siccome siamo alla fine dell'anno, ho scritto Buonanno e capisco casualmente che sia quasi Capodanno, però è in effetti. Se per caso mi perdo, mi trovano perché è Buonanno. Ovviamente litiga questa mattina con Stella Pende, giornalista di Mediaset, che difende i Rom dicendo che i Rom non trovano lavoro, sono gli ultimi della società. Buon anno. Ci sono tantissimi Rom che rubano. Ci sono tantissimi Rom che vorrebbero integrarsi. Ma signora, siamo in Italia. Se io sono un genitore, mando mio figlio a chiedere l'elemosina, lo uso, la mamma lo usa che ha 6 mesi a chiedere i soldi, o prendo i figli e li mando a rubare perché così se non vanno in galera. Ma signora, ma dove vive lei? Ma ritorni in Romania. Ma dove vive lei? Ma torni in Romania. Studi un po' più. Ma che cosa dice? Lasciamo perdere lo scontro, ma la Pende che dice vorrebbero lavorare e non sanno come fare, una cosa pazzesca, dai, vorrebbero lavorare ancora con questa storia. Io guarda, non sono, a me non me ne frega niente, ma quelli che dicono, io non sono razzista nei confronti dei Rom, figuriamoci, ma quelli che dicono, beh, i Rom vorrebbero lavorare ma non trovano lavoro, ma che cazzo c'entra? Un altro intervistato dice rubiamo però non siamo come i politici, tutti ad applaudire, ma paragone assurdo. Dicano ogni giorno, vediamo su televisione, rubano i zingari, sì, rubiamo, non è che non rubiamo, ma noi rubiamo un pezzo di pane per affamare i nostri figli. Ma altri, questi di politici, rubano milioni, miliardi. Dove vanno a finire questi soldi? Non siamo solo noi delinquenti. Oh, la tua amica Pavlovic, a proposito di Rom, Parenzo? Ieri. A proposito di Rom, dice con i soldi sprecati a Roma si poteva comprare una casa per ogni famiglia Rom. Un'altra cosa che non c'entra una mazza, diciamolo subito. Non c'entra una mazza. Però è simile a quello che ci ha detto Croppi, eh? Ma no, ma non c'entra niente. Quindi lui ha detto c'entra che si tutto invece. Ma figurati. Pavlovic, dai. No, niente, guarda, non attacca questo discorso qua. Ogni soldo sprecato è una cosa negativa. Ma cosa cazzo c'entra il fatto che si potevano utilizzare per comprare? Ma perché uno deve comprarla, costruire la casa ai Rom? Perché? Perché devo costruire una casa ai Rom? Non la devo costruire a una persona, a un'altra persona qualsiasi. Perché? No, lei dice un'altra cosa. No, ma sentiamo. Se lei pensa a tutti i soldi che sono stati spesi, avrebbero potuto pagare o comprare una casa per ognuna di queste persone, visto che a Roma ce ne sono 6.000 soltanto. Ma perché? Ripeto per l'ennesima volta, se uno non ha una causa, una causa ce l'hanno tanta gente in Italia, se uno non ha una casa o si iscrive alle liste quelle comunali, quelle comunali per partecipare ai concorsi per l'assegnazione delle case popolari, oppure va da un'agenzia e bussa, toc toc, pronto, posso affittare una casa? Posso affittare una casa? Appunto, che vengono stanziati per aiutare i più deboli, cioè i fondi di solidarietà, se fossero stati spesi bene, anziché fare dei campi. No, non ha detto di fondi di solidarietà. Ma i fondi che vengono destinati per le non si sociali. Devono costruire case apposta per i Rom, si devono costruire casomai, e secondo case me è già sbagliato case. Sì, ma lei parlava dei Rom. Ma comunque. No, perché nel merito le hanno chiesto quello, era Matrix, era ieri sera, c'ero io, eh. Sì, sì, sì. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Inchiesta mafia capitale, la segretaria di Buzzi conferma le buste dei politici, si indaga su un PC rubato negli uffici del servizio giardini del comune. Scontro politico sull'ipotesi di sciogliere il comune, Berlusconi subito al voto, Alfano così si punisce la città, il sindaco Marino ospite del TG3. Rapporto Censis, l'Italia paese bloccato che non sa utilizzare le sue risorse umilia i giovani, il 60% degli italiani teme di cadere in povertà. L'allarme del governatore di Banca Italia, la deflazione è un ostacolo alla crescita, Padoan il nostro debito è sostenibile, lo spread sotto quota 120. L'omicidio di Loris, fascette sequestrate compatibili con quella usata per ucciderlo, buchi nel racconto della mamma, la sua auto mai davanti alla scuola. Strage dell'immigrazione, 17 morti a sud di Lampedusa, prima tragedia dalla fine di Mare Nostrum, ONU si rischiano migliaia di vittime. Negli Stati Uniti un altro nero disarmato ucciso dagli agenti a Phoenix in Arizona, la protesta dilaga, ieri 200 arresti solo a New York. Silvio Parenzo, ieri dicevi, sì, ci sono qualche esponente del Partito Democratico coinvolto. Questo sì. Diceva Parenzo, qualche esponente, cioè la cosiddetta mafia capitale, cioè questa organizzazione mafiosa, sì. Eccetera, poi è tutto da dimostrare, ovviamente, eccetera, pagava campagne elettorali di Marino e di mezzo Partito Democratico a livello locale, a livello stai di circoscrizione. Parlando però delle due cooperative, eh. Sì, ma ho capito, ma è questi, ma è la cooperativa al centro di tutto, erano soci in affari, Carminati e Buzzi, erano soci in affari, mezza campagna elettorale di Marino è stata pagata da questo Buzzi. Magari non sapeva, lui è inconsapevole. Ma sentiamo Marino sulla questione delle foto, va? La questione della foto in cui è ritratto insieme a questo Buzzi. Io ripeto, Marino non è colpevole dal punto di vista giudiziario di nulla. Fosse stato un altro sindaco, un sindaco diciamo dell'estrema destra, della destra, del centro, ho fatto tutto l'arco costituzionale. Cosa avrebbero detto dei contatti con uno che adesso è accusato di associazione mafiosa? Cosa avrebbero detto, Marino? Mi pare. Direttore, questo scoop incredibile è una foto che era sul mio diario Facebook della campagna elettorale. Io dico con orgoglio che sono andato in quella cooperativa a incontrare ex detenuti che vengono reinseriti nella società. Marino ha detto di non aver mai avuto un colloquio con questo Buzzi, anche qui gli crediamo assolutamente, ma è, come dire, è l'immagine quella che conta in questo caso, no? Dici di non averlo, di non averci mai parlato, poi esce fuori questa foto. Ancora Marino su che cosa? Marino ancora. Non ho mai avuto nessuna conversazione di lavoro e nessun incontro né prima né dopo con la persona fotografata tra gli ex detenuti. Però io dico una cosa, no? Uno riceve 30.000 euro in campagna elettorale e non sai da chi li ricevi. Probabilmente li sai da chi ricevi, ma in quel momento magari. No, la che era della cooperativa. E in quel momento tu dici la cooperativa non è coinvolta in nulla, no? Ma posso dire di più? Mi è sembrato molto convincente quando l'altro ieri, Renzi da Mentana. Sì. Ha detto io non so chi è venuto alla mia cena di Firenze. Quella è un'altra cosa, sì, la cena di Firenze. No, è uguale. Cioè, sono venuti degli imprenditori. Io non so se tra questi c'era pure Buzzi. no? Alla cena, sì, di che Roma. È un'altra cosa che ha detto Alemanno, sì, che, arriverà, quella... che avrebbe rivelato Alemanno, ancora sì. Non si sa se ha partecipato no, a questa cena. Stare, io sto a quello che ha detto il presidente Renzi, no? Lui dice, sì. Io non lo so, non conosco la fedina, cioè posso conoscere la fedina penale di chi viene a una cena, ma questo assolutamente, fundraising, no. Se poi si scopre che questa persona ha fatto evasione fiscale, qui parliamo di reati associativi, sì, di mafia, sì. E va bene. Ma se poi si scopre che uno di quegli imprenditori che ha dato i soldi ha fatto evasione fiscale, dobbiamo dire per la proprietà transitiva che Renzi è colpevole? No, credo, no, no, certo, no, no, solo questo. Questo mi pare evidente. Sì, quindi io... Marino a buon diritto dice... Io quella cooperativa, anzi, lui all'inizio ha rivendicato con orgoglio il fatto di averla finanziata, perché gli sembra di avergli dato sì. Che ci fossero gli appalti del comune, perché diceva faccio una cosa sociale, perché è una cooperativa. Sì, ma è possibile che nessuno mai nessuno Pensiamo sa niente. Al merito, perché poi sì, ma è possibile che nessuno sa mai niente. In questa inchiesta sono fioccati avvisi di garanzia, perché l'elenco ce l'ho qui e te li leggo tutti. No, no, non leggere nessuno. Leggiamo tutto no, l'elenco di No, no, non interessa a nessuno. Delle persone che no, ma la cosa più incredibile è un'altra. Possibile mai che uno che ha ammazzato una persona, perché questo Buzzi ha ammazzato una persona. Ora cosa sta no, ha ammazzato una persona. Dopodiché diventa elogiato. Aspetta, elogiato. No, questa qua è la principale. Elogiato, no, molte altre, elogiato, sì, elogiato da tutti. Elogiato da ma tutti. Cosa chiudiamo le cooperative? No, aspetta, aspetta. È aspetta. Una delle cose più encomiabili qua, che vengono fatte. Assolutamente. È stato elogiato da tutti. Elogiato da tutti. Ma a mio parere, uno che ha ammazzato una persona, poi diventa socio sostanzialmente del pubblico. Socio del comune, se a voi vi piace un mondo così, pigliatevi un mondo così. Domenico, provincia di Napoli. Buonasera, mi ascolta? Sì, dimmi. Senta, io volevo che lei facesse un atto di assumesse la dignità intellettuale e culturale sì. Contro di Vauro e gli desse scusa. Bauro, sì. Perché ieri. No, lui ha chiesto scusa mi dopo. Mi faccio parlare, però, non faccio come al solito. Mi faccio no, parlare. Bauro ha chiesto scusa a Storace. Sì, però questo non l'ha detto. Ma come non l'ha detto? L'ha detto Parenzo, l'ho detto io. La trasmissione, e guardi che Storace si è alzato e gli ha stretto la mano. E questo lei non l'ha sottolineato. No, guardi, allora. Lei va a tiro di. Come lei va in continuazione di essere un giornalista tutto tondo, no? Ma non è una questione di giornalista tutto tondo. Un giornalista. Domenico, allora abbiamo detto che Bauro dopo si è scusato. No, dopodiché la polemica passato, oggi. La polemica oggi. Ma non ho detto a passano, ho detto che una frase è stata. Mi ha chiesto umilmente scusa della caduta di stile che ha avuto che di dire. Benissimo, si è alzato e gli ha stretto la mano. E questa lei non l'ha sottolineato. Se lei vuole essere un titolo di giornalista e non da giornalai. Faccia un po' di atto di umiltà. Allora, di Domenico, l'abbiamo detto prima. Tutte l'abbiamo due, detto no, prima. Io ha ascoltato male. Ha ascoltato male. L'abbiamo no, detto lei, prima. Lei, guardi, io mi sento benissimo. No, sento guardi, benissimo. Che secondo me già lei ha sentito male. In ogni lei caso. Culturalmente più di sì, tutto. Va bene. Domenico, il punto fondamentale è un altro: che oggi la polemica è rimasta una. Che la polemica oggi è rimasta fortissima. È rimasta Ma Storace ha avuto. Cioè, Vara ha avuto una caduta di stile. Ha capito bene. Anche se forse lei ha ragione. Che ha espresso un suo intimo desiderio, però questo non va detto e lui ha confessato pubblicamente di aver sbagliato. Allora Storace nel pomeriggio, dunque decisamente dopo ieri sera, ha sì. Detto che le minacce di Mauro le minacce di ma Mauro minaccia, meritano guardi, ma ho capito, è quello che ha detto Storace oggi. Non gli hanno detto. Storace si è alzato, si è voltato di spalle. Oddio, ma lei, spalle, io sto dicendo scusa. Quello che ha detto Storace oggi, evidentemente. Ma cioè, io ho visto la trasmissione, guardi, io ho visto la trasmissione ieri sera, che cosa mi dice? Va che le persone calcolano i cambi dai. Va bene, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, grazie Antonio da Roma. Vabbè, vabbè. Ma vabbè un cazzo, l'ho detto, basta, Antonio da Roma. Vabbè, vabbè, l'ho detto, che ha chiesto scusa. Vabbè, vabbè. Ti prego. Allora, succede una cosa incredibile, secondo me, incredibile. C'è il Censis. Molti di voi non sanno cos'è il Censis. Del signor Derita. Sì, è un istituto di ricerca socio-economica fondato nel 64, fammi parlare. Fondato nel 64 ed è partecipato tra pubblico e privato, ma ci sono molti fondi pubblici. Allora, il Censis ha un presidente che si chiama appunto Giuseppe Derita da tantissimi anni. Hanno assunto un direttore generale, segretario generale e direttore generale per il prossimo triennio 2015, 2016, 2017. io posso immaginare qualsiasi cosa, ma non che il segretario generale, il direttore generale, possa essere il figlio di De Rita, cioè Giuseppe De Rita è il padre, Giorgio De Rita il figlio, viene nominato dallo stesso Censis, direttore generale e segretario. Ditemi voi, sentite la risposta del padre. Giorgio De Rita, appena nominato segretario generale e direttore generale del Censis, è suo figlio? Sì. Lei è uno dei fondatori della struttura, c'è un conflitto di interessi in questo? Non vedo il conflitto di interessi. Il direttore generale precedente è andato via, mio figlio ha un curriculum adeguato. Non è che mio figlio è ingegnere, non aveva diritto a entrare al censo, queste sono cazzate, detto brutalmente. È una persona che io ritengo di ottima levatura, che ha fatto la sua carriera, non è che è uscito dalla culla e è arrivato da noi, si è fatto 5 anni di Bologna come amministratore delegato dei nomi, ma dove perché era suo dove figlio? Lo trovavo un altro che aveva fatto 5 anni già di direttore di un istituto di ricerca. Ma tu ti rendi conto? Allora qui si capisce dove arriva. No, io qui non vedo polemica, francamente. Non vedi polemica? No. Non vedi polemica? Cioè, no, capito? Perché... Giuseppe De Rita, che prende una parte di soldi pubblici per il Censis. No, allora calma. Cosa? Allora, se è un'azienda privata. Certo. Certo, diritto, partecipazione di alcuni enti pubblici e privati. No, è un istituto di ricerca. Spesso ci sono delle dinastie industriali, no? È una fondazione riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica. Vabbè, ma questo è un altro discorso, che c'entra, mica ruba soldi allo Stato. No, ma prende dei soldi, viene finanziato. Prende alcuni soldi per il lavoro, per le ricerche che svolge. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma veramente sei al delirio totale. No, cioè, posso essere al delirio. Ha preso il figlio. Ma avrai nello stesso istante in cui hanno presentato un rapporto annuale in cui parlano della situazione sociale del paese. Ma della stessa cosa non si direbbe però di una delle grandi dinastie industriali di questo paese, ma cosa c'entra? Lascia il posto, ma di ognuno fa, ma quello non c'entra nulla. Ma hai sentito la spiegazione che ha dato o no? Sì, ha detto quello che avrebbe detto chiunque per giustificare. Non ce n'era un altro migliore, non c'era un ricercatore migliore, non c'era uno che conosce le fondazioni, insomma il modo di gestire questo ente. Ma magari c'era, ma si può dire lo stesso delle aziende. È il figlio, Parenzo, è il figlio. Si può dire, ma scusa, ma qualcuno direbbe è così, il figlio, ma prende soldi dallo Stato in parte il Censis. Qualcuno dice qualcosa a Benetton? Ma sono cose diverse, ma come fanno a renderti conto di una cosa del semplicemente genere? Semplicemente perché qui ci sono alcuni fondi pubblici che vengono erogati. Ma come? Semplicemente per questo? Perché loro riescono a facendo con le ricerche che fanno, ed essendo riconosciuto veramente come istituto, ricevono alcuni fondi. Ma non è che cambia la sostanza del ruolo, dell'eccellenza di quel del Censis. Ma uno non deve nominare il figlio nel posto in cui lavora, se prende i soldi dal pubblico, se comunque fa un'operazione, è una fondazione che si occupa di studiare la realtà pubblica. Lascia fare quel che studiano, che questo se lo fa bene o male lo giudica il mercato e lo giudicano. Ma io veramente mi stupisco di come tu non... No, ma io mi stupisco che tu ti stupisci. Cioè, tu ormai sei abituato a qualsiasi cosa. Vabbè, dai, Gabriele, provincia di Grosseto. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. A tutti. Allora, proprio a proposito di quello che stavate dicendo, cioè, mi sembra palese che tutto è legato a questo tipo di atteggiamento. Il TG3, i titoli del TG3, a parte la morte di quel nero a New York, tutto il resto si può ricondurre a questo tipo. Sì, però lei da dove ci sta chiamando? Scusi, no, perché... No, ma da dove che non si sente bene? Da dove? Dall'auricolare, dalla macchina, da dove? Sono a lavoro, sono un lavoratore. Sì, ho capito, ma tolga, si mette in collegamento bene, su. Pronto? Pronto? Niente, dai. Lucio da Lodi. Tutti signori. Dimmi. Io volevo dire semplicemente a Parenzo che per me vince il premio della demagogia, o meglio, dimostra questa differenza di considerazione quando alcune cose succedono a destra e alcuni atteggiamenti li hanno rialzati a sinistra. Destra o sinistra? Vabbè, così. Non c'entra niente, è chiaro che lui del figlio dice che è il migliore. Vabbè, ma che c'entra la sinistra o la destra con questo? Ma non è questo, non sta parlando di questo. Mi riferisco a Marino, perché vabbè. In questo paese se si cambiasse l'atteggiamento un po' di tutti, al di là di chi commette il reato, ma si colpevolizzasse e non si dà, non si deve finire di dare la giustificazione non sapevo, non puoi non sapere, perché se ti trovi a certi livelli sai benissimo di tutto quello che succede sotto di te. quindi basta giustificare. Se fosse stato, se fosse successo a destra, avreste. Allora, se la stessa cosa fosse successa a destra, la stessa situazione di Marino, finanziamenti da una cooperativa poi accusata di essere la cupola mafiosa, foto insieme a uno accusato in galera per associazione mafiosa e altre cose, fosse successo a Alemanno, lo avrebbero impiccato a Piazza del Popolo. Questo è evidente, è chiaro. Alemanno lo hanno indagato, è un po' diverso. No, ma fosse successo in un altro momento. Questo hai dato l'esempio sbagliato, cioè Alemanno non un altro sindaco, adesso ti dico un altro sindaco, non ci sono più i sindaci di destra. Ma qui rimane la questione che ti ho posto di fondo. Sì. Se ha finanziato la campagna elettorale di mezzo partito democratico, mezza campagna elettorale di Marino. Se domani si dovesse scoprire che io ho fatto, parliamo di noi. Ma è politica la questione, non giudiziaria, politica, politica, politica. Se si dovesse scoprire che io un domani ho fatto una clamorosa evasione fiscale o... Beh, ci sarebbe un problema con quello che hai detto, se, certamente. Sarebbe in tutti questi con anni. Quello che ho detto io, ma non col fatto che Giuseppe Cruciani ha preso che uno... Che c'entra questo, scusa? Ti sto spiegando, perché fai finta di non capire apposta, che nel caso beh no, ci sarebbe un problema anche per me, perché evidentemente non ho capito niente, dire... non ho capito niente di come si è fatto e ho avuto accanto per capito, qualche anno un malfattore. Ma non è che come io per tutte parte le che le cose che sono le ma cose non è che sono diverse. Colpe delle stronzate che fai, voglio dire, nessuna. Ma sono cose diverse, dai, non dire stupidaggini, sono cose completamente diverse. No, ma mettiamola in politica. L'esempio che ti ho fatto prima è fai una cena di finanziamento. Allora, o ti fai dare prima, e c'è, forse c'è il modo di scoprire questo almeno, se nel casellario giudiziario gli imprenditori che ti hanno finanziato hanno procedimenti aperti. Ma è la questione politica di complicità con un sistema, di complicità con un sistema, guarda, di finanziamento, di finanziamento. Gli assessori che erano complici sono stati indagati. No, ma non hai capito ancora. C'era un sistema di mantenere in piedi l'emergenza. C'era un sistema che ieri ci ha spiegato Crop di mantenere in piedi l'emergenza, nomadi, immigrati, abitazione. Sì, ma gli assessori coinvolti, non Marino. Per non ora. Marino, d'accordo, non Marino. Non Giuseppe da Salerno. No, ma io. Io non ho nessuna simpatia per Marino, posso dirtelo. Ma allora, nessuna. Lucio, che stava dicendo Lucio, però? No, non c'è più. Marco da Latina. Eccomi. Vai, dimmi. Volevo intervenire sempre su questo discorso di Roma. Allora, io credo che. Comunque la cosa incredibile è che Parenzo dice che il Censis prende soldi pubblici, perché prende soldi pubblici, c'è il presidente che mette lì come direttore generale il figlio, dicendo che è l'unico possibile, dice no, ci può stare. Prende soldi pubblici e mette il figlio. Questo non mi pare uno scandalo. Non ti pare uno scandalo, vabbè. Soldi pubblici. Ah, amico mio, se lo fai per trovare un motivo di non discussione, è che vive solo di soldi. Ma non c'entra nulla, basta che prende un euro di soldi pubblici e non puoi mettere il figlio. Fai un concorso, fai qualcosa, ma non metti il figlio. Fallo lavorare in qualsiasi posto del mondo. È bravo? Può lavorare in qualsiasi posto. Non dove lavori tu come presidente. Gabriele, provincia di Grosseto, dai. Pronto? Sì, chi è? Marco, Latina. Allora, non è tollerabile questo, perché è un conflitto di interesse evidente. Ma no, ma è talmente evidente che io non riesco a capire come non si possa... Cioè, una cosa è che tu sei Benetton e prendi il figlio, sono affari tuoi, soldi tuoi, ma se tu prendi un euro di soldi pubblici, il tuo figlio non lo metti lì, in particolare se dici che è bravissimo. Se è bravissimo andasse a lavorare da qualsiasi altra parte, perché lo devi mettere al Censis? Ma magari l'ha fatto, come sembra. Ma sì, lavorava prima, adesso al Censis non ci lavora, finché ci sei tu non ci lavora. Non è che non aveva lavoro. Senti, è talmente clamorosa questa cosa qua, che manco che se ci pensi un attimo te ne renderai conto. Marco dalla Latina. Io volevo dirti una cosa per quanto riguarda sempre questa questione di Roma. Allora, secondo me ci vuole la tolleranza zero. Non è assolutamente possibile. Cioè, che cosa? Bisogna sciogliere il comune? Che bisogna fare? Chi sbaglia paga e deve essere punito. Questo deve essere un matto, non si può prescindere da questo. E il comune deve essere sciolto. A mio avviso può essere sciolto anche per molto meno. Anche perché, se siamo stati in Inghilterra, il sindaco sarebbe dimesso per molto meno di quello che è successo. No, ma poi, tra l'altro, scusa, Marino ha scelto degli assessori, li ha scelti lui, questi si dimettono, e uno dice che non ha responsabilità, avrà sbagliato pure lui a scegliere una parte della squadra, o no? Ci sono gli assessori che ha scelto lui, o forse gli sono stati imposti, punto interrogativo, nessuno dice che ha responsabilità, ha scelto lui gli assessori, non è che l'ho scelto io, di cui uno è ex PDL, tra l'altro. Dai. Bisogna assumersi le responsabilità e chi è al vertice deve pagare comunque. Non è possibile, non sapevo, non me l'hanno detto, quel giorno non c'era. Non è tollerabile questo, ci vuole tolleranza. Va bene, Antonio Campobasso, vai. Buonasera, dottor Cruciani, grazie per la chiamata. Dimmi. Io probabilmente mi ripeto su altre cose che sono state dette prima. Volevo dire questo, possibile che ogni qualvolta si scoprono queste buboni di questa portata qui, c'è sta sempre gente che dice ci dobbiamo mettere davanti a intorno a un tavolo rotondo, quadrato, rettangolare e si riparte sempre da zero. Poi alla fine passa questo momento di rabbia Non ho capito niente, scusa Antonio, però non ho capito niente, dimmi. Stavo dicendo, in merito a questo bubone che è scoppiato sulla mafia capitale, sì, cosiddetta, allora ci sono ieri sera io ho visto un po' di trasmissione dove si parlava del più e del meno di questo. Allora di questo vai, problema. Veloce Antonio, no, su, allora, che mi devi dire? Dicendo, non ho capito niente, dai. Sto dicendo che bisogna, si parla, però bisogna agire, tagliare, sezionare e buttare via la gente che non vale più niente. Ma che vuol dire tagliare, sezionare? Non ho capito. Tagliare, cioè mandarli via, condannarli. Ma che vuol dire bisogna tagliare, selezionare, mandare via, condannarli? Chi? Come? Dipende. Chi ha commesso dei reati, certo, gli altri no. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Non lo sto dicendo tutti, però qui la gente ce li ritroviamo sempre in mezzo a queste cose qui, nei partiti, nelle aziende municipalizzate. Ah, quello sicuro, che gente riciclata poi vada a finire nelle municipalizzate, non c'è dubbio. Baby, I feel good from the moment I arrive. Feel good from morning. Beh, caro Parenzo, tu sei a Londra, ma questa sera abbiamo un grande personaggio ospite. Un personaggio che è stato al centro in questi ultimi 30, 35, 40 anni della vita giudiziaria italiana per un evento clamoroso che fu l'assassinio di uno scrittore anni fa. Ormai praticamente 40 anni fa, nel novembre del 74. Quando è morto Pasolini? Novembre 74, Parenzo? 74, Parenzo. Sì. E lui è Pino Pelosi, buonasera. 75, buonasera. Quasi 40 anni, quando fu quel fatto, Pelosi? 2 novembre 75. 75, dunque 39, giusto? Più o meno, 39. Sì. Allora, Pino Pelosi, innanzitutto l'abbiamo chiamato per questo, perché Pino uno... La Rana, no? Sì, detto Pino La Rana, no. Sì. No, vabbè, quello è un soprannome perché c'ho gli occhi gonfi e di tutto il travaglio che avevo fatto, ecco. Senti Pino, ma io ti ho chiamato soprattutto perché, al di là delle questioni ultime che sono uscite su Pasolini, di cui parleremo, perché tu hai conosciuto molto da vicino Buzzi, anzi lavoravi con la cooperativa. Io lavoro tuttora. Lavori tuttora con la cooperativa. Che tipo è, che personaggio è Buzzi, per quello che lo puoi conoscere tu? Beh, Salvatore è un presidente che ci ha garantito 25 anni di stipendi, cioè. Tu hai preso per 25 anni lo stipendio? No, io 8 anni che lavoro, sempre presi i stipendi, sempre, anche gli anticipi quando chiedevamo, non c'era problema. Tutto regolare, addirittura tutto regolare. Gli anticipi, addirittura. Anche gli anticipi, sì, lo stipendio sempre precisi, sempre. Se servivi una mano per prendere una patente, si trova che soldo, ti anticipava e poi ti levano 100 euro al mese. Quant'è che prendi tu di stipendio? 9,80, 9,70, 9,40, secondo le ore del mese. Ed è praticamente il tuo unico stipendio? No, io in tempi, no, 2 anni fa mi sono fatto una cooperativa sociale onlus che si chiama PDM Pace dal Mondo, però sono 2 anni che non abbiamo preso manco un appalto e paghiamo le tasse, anzi se qualcuno ci desse una mano, perché adesso siamo messi male la cooperativa, non so se la commissiare, no. Vedremo. È un po' un casino adesso. È un casino, ma che persona è? Dal tuo punto di vista dunque è una specie di benefattore Buzzi? Buzzi ha tirato fuori tanti detenuti, insomma gli ha dato lavoro, non gli si vuole criminare nulla, poi si intrallacci, noi operai semplici non sappiamo niente, che non ci siamo la mattina a lavorare e torniamo all'1:30 quando è fine lavoro. Cioè, ma secondo te dunque è una brava persona? Cioè tu ci credi a queste cose qua, che era praticamente il capo di una cupola mafiosa? Che... Ma non credo a cupola mafiosa, certo se ci stanno intercettazioni e appalti, e da che mondo, ai tempi dei romani che si comprano la gente, questo può succedere, ma cioè, non ti stupisce che abbiano corrotto dei funzionari pubblici per ottenere dei appalti? No, ma sono secoli che c'era Tangentopoli, c'erano Vallettopoli, quanti scandali ci sono stati e ci saranno ancora, ma scusami, cioè, scusami, per ottenere gli appalti tu dici ha fatto pure bene a dare dei soldi a funzionari del comune, ma a politici? Questo non lo so, ma mica tutti gli appalti saranno stati comprati, so, apposta, non lo so, poi è tutto da provare. Ma tu Carminati l'hai mai visto? No. Non sapevi che era praticamente il socio occulto? No, noi usciamo la mattina alle 6:30, 7, rientriamo all'1:30, poi siamo sfuggiti e andiamo via, dai che... Non ti ho... È la giornata, capito? E tu quante volte lo vedi, diciamo, in una settimana, Salvatore? Ma comunque può capire una volta, due, o a volte dopo 10 giorni, o quando il bilancio, quando ci sono le riunioni dei soci. Cioè, per te che cos'è? È il tuo datore di lavoro? È un grande come uomo? È un datore di lavoro che ci ha preso a lavorare un sacco di gente e che non gli può dire niente. Da... sempre avanti lo stipendio, che gli può dire niente. Parenzo, che vuoi chiedere a Pelosi su questa no, cosa qua? No, volevo capire se lui... è chiaro che lo considera così, perché lui che vuoi? Gli ha dato lavoro come tanti altri detenuti, sì. Quindi è giusto ed è evidente che sia così. Ma se aveva visto dei personaggi, come dire, un po' magari strani, equivoci, aveva visto delle cose un po'... come no, dire... noi siamo personaggi e siamo usciti dal carcere, noi... A maggior parte e anche lui, anche Buzzi. A metà circa siamo detenuti che cerchiamo di inserirci nella società lavorando. Ma purtroppo speriamo che questo scandalo non ci faccia mancare il lavoro. Perché questo non credo. Qualche possibilità, c'è, perché i soldi diminuiranno sicuramente. I soldi dati alle cooperative da questa vicenda. Faccio un appello a Marino. Noi faccio di continuare a lavorare, se no io sono sta cooperativa pace dal mondo. Pure un piccolo appalto, noi andiamo adesso, a lavorare. Appalti pure a destra, no, e a ma appalti normale. Non pensi, io ho fatto solo, abbiamo partecipato a un appalto a un ospedale, siamo arrivati secondi al 51%, cioè a metà budget siamo arrivati secondi. Che vuoi fare? Che è successo, dici? Al 51% vuol dire metà di quanto ti danno, giusto? È tutto bagnato. Addirittura meno della metà. Mi puzza sta cosa. Te puzza, vabbè, ma sai, a Roma. A Roma può succedere di tutto. Hai capito, poi bracci. A Roma tutto può succedere. Ma che a metà non c'è manco un subappalto. Abbiamo preso uno piccoletto, ancora siamo finiti a pagare. Comunque ancora Pino lotta e combatte come un leone, Parenzo. Allora, la gente deve sapere che ufficialmente Pino Pelosi è ancora l'unico condannato per la morte di Pasolini. Sono innocente, aiuto. Sei innocente, tu ti proclami innocente ormai. Sì, io mi sono proclamato da mo che mi sono proclamato. Sì, lo so che da mo che. Però per la gente, sai, non è che è tenuta a sapere tutto. Ecco, dunque, tu dici: io non ho toccato con un dito proprio Pasolini, non l'ho toccato. No, io l'ho difeso e ho preso un cazzotto in faccia e ho due punti in testa, che poi mi hanno messo all'ospedale. Dunque tu non l'hai ammazzato. No, qualcuno mi ha dato le botte. E chi ti ha dato le botte? Quelli che stavano là per difendere Paolo. Chi erano? E quanti erano? Non no, perché so tu erano. No, erano chi... sei, l'ho detto al pubblico mistero. Sei persone e quante macchine? Erano due Alfa GT, quella di Patolino e un'altra uguale, una 1100, 1500, 1300 Fiat, quelle vecchio modello, una moto e niente. Ma scusa, i famosi fratelli Borsellino che nessuno conosce. I fratelli Borsellino, io ho visto. C'erano o no? C'erano. Sì, ho visto che ci seguiva una moto, quei fratelli Borsellino, però a Nitroscalo io ho visto un faro di una moto, non ho visto loro, perché a tre metri non si vedeva, ho presunto. Dunque non sai chi è che ha picchiato e ucciso Pasolini? No, loro li escludo, le altre due persone che ho visto da vicino non erano loro. E che caratteristiche avevano fisiche? Due tipi un po' grossi, e quello che mi teneva a me c'era la barba sulla quarantina e... Comunque la svolta è venuta recentemente anche dal DNA, che pare che abbia confermato. Dico, io non so nulla, ma sarei contento. Allora vuol dire che ho detto la verità, giusto? Sembra. Poi prima avevi detto un'altra cosa, però cioè, poi io tu... so, i tempi erano maturi, c'avevo la famiglia e... Non potevi dire quello che era successo. Questo è il punto. Allora torniamo dopo la pubblicità con Pino Pelosi. Tra poco. Legge e ordine, l'ordine di Borghezio deve regnare su Roma. La Zanzara. Ormai è tutto degradato ormai. Allora, la cosa che fa più schifo in questi giorni, cari amici, è che c'è un paese che paga le tasse, un paese che si arrabatta, chi più chi meno, ovviamente io meno perché ho avuto, posso dire, di arrabattarmi, una parte consistente del paese che cerca di restare nei limiti della legge, che cerca di pagare le multe, che cerca di pagare ogni centesimo di tasse. Invece c'è chi spolpa lo Stato, caro Parenzo, chi lo spolpa, chi se ne fotte che sono soldi dello Stato, chi sperpera quattrini pubblici e poi magari chiede aiuto al governo per ripianare i debiti. Sto parlando ovviamente di Roma, no? C'è chi fa crescere il debito pubblico, chi prende mazzette, chi mette gli amici degli amici ovunque. Questa è la cosa più scandalosa di questi giorni, al di là delle singole responsabilità, che pure ci sono, eh. e nessuno che chiede scusa, cioè non è che c'è nessuno che si alza e dice scusate, forse ho sbagliato ad amministrare la città in un certo modo, e sto parlando dell'ex sindaco di Roma, ovviamente. E voglio anche ringraziare un gruppo di professori del liceo Tasso di Roma, i quali si sono opposti in maniera strenua, si sono opposti alla occupazione del liceo Tasso e soprattutto al fatto che in nome di non si sa che cosa il deputato del PD Civati andasse lì a fare una specie di comizio, di incontro con gli studenti, perché protestavano contro il Jobs Act. Dunque bisogna dire bravi a questi professori del Tasso di Roma, che di fronte alle occupazioni, di fronte alle illegalità, hanno detto basta, tra l'altro dicendo anche delle cose assolutamente comprensibili, che è quello che dicevo io, questo è un posto di lavoro, basta perdere tempo, è un posto di lavoro, basta soprusi nei confronti di chi vuole studiare, di chi vuole fare lezione, basta soprusi. Tra l'altro tu ieri hai fatto una piccola gaffe, perché hai detto in diretta sì, però le occupazioni non c'era ideologia, eravamo lì per divertirci. Ma che vuol dire per divertirci? Cioè, lo fai perché sei convinto? C'era un aspetto aggregativo che... aspetto aggregativo lo fai al bar, non è che sul suolo pubblico. No, ma che sarei uno sciocco a dire che c'era soltanto della ideologia, perché in realtà è ovvio che c'era un aspetto, come dire... Comunque bravissimi quei professori che hanno detto Civati, senti, vattene, va. Se dicessi che volevamo fare la rivoluzione, direi una fesseria. È cosa che nessuno di noi lo sai, che tu sei in Inghilterra. Volevamo cambiare delle cose, il premier inglese Cameron ha promesso alla moglie una cosa che è uscita oggi sui giornali inglesi: non ti preoccupare tesoro, in occasione della visita nel 2010 a Berlusconi, non ti preoccupare tesoro, mi faccio tirare fuori dalla vasca jacuzzi prima che ci entrino le mignotte. Questa devo dire che è molto bella. Starò lontano dall'escort di Silvio. Così Cameron, il premier inglese, promise alla moglie. Ma abbiamo con noi Pino Pelosi, che è l'unico colpevole per adesso della morte di Pierpaolo Pasolini, ma che qualche settimana fa, in realtà già da tempo, sostiene di essere innocente. Hanno trovato delle tracce, ha detto ai magistrati delle tracce di DNA, non solo sue ma anche di altri. Ha detto al pubblico ministero che c'erano macchine. Oddio, adesso mi sono segnato qua tutto. Erano in sei, è stato ucciso da due persone, c'erano oltre alla macchina di Pasolini altre tre automobili e una moto, giusto Pelosi? Due automobili e una moto, cioè... uguale a quella di Pasolini, un 1500 e una moto. È una moto. Ma cosa è stato, un agguato di chi? Ecco, però? Ma questa è la cosa, lo dovranno scoprire gli inquirenti. Ho capito, ma quelle due persone che sono poi quelli che hanno picchiato, giusto, che tu hai visto picchiare Pasolini, secondo te sono sicari di qualcuno? A questo punto, dopo vari anni, abbiamo ricostruito con il regista Federico Bruno, che ha fatto l'ultimo film su Pasolini, tratto dal mio libro, La verità nascosta, che nessuno vuole mandare in sala perché è troppo forte, capito? Nessuno lo acquista quel film, chissà perché. C'è l'ombra da Graziella Chiercossi, chi? E c'è tutto il suo gruppo, la cugina di Pasolini. Che lei hanno chiamato i carabinieri, hanno trovato la macchina di Pasolini a via di Burtina quando hanno arrestato a me. Perciò vuol dire che sono due macchine. Poi questa denuncia è sparita. Poi c'è un'altra cosa, Ninetto Davoli. Ma perché vuole impedire? Perché vorrebbe impedire la cugina di Pasolini la diffusione del film? Ci avrà paura, gli hanno fatto pure il furto a casa? Gli hanno rubato per paura di che? Paura di che? Perché ne so, lei lo dovrebbe dire. Ma secondo te da chi l'ha ammazzato? I sicari della politica, sicari del mondo degli... Non lo so. Secondo te? Io non lo so, io non sono ignorante. Quello che ho visto dal film fa due o tre crane, non lo so, parla di tante cose. E niente, pure sul mio libro io so come hanno ucciso Pasolini. Poi stavi dicendo dopo... la cugina, che c'era un'altra cosa? Ninetto Davoli prese in carico la sua macchina, dopo qualche anno la portò allo sfasciacarrozze e la distrusse. Perché ce lo domandiamo? Chiunque avrebbe preso la macchina in regalo. Senti, ma tu perché dopo tanto tempo hai parlato? Solo per paura? Oppure perché qualcuno ti ha suggerito prima di non dire niente? No, perché io stavo agli arresti domiciliari, venne sto regista, il mio avvocato, un giornalista, e mi convinsero a fare il secondo libro e mi tirarono fuori queste poche cose che ho detto e che ho scritto. Ma l'hai fatto per soldi o no? Scusa. No, però sai quanto ci ho preso dei soldi io? Niente, solo anticipo e basta. Quanto? Così. Vabbè, l'anticipo hai preso però. 2500 euro. Ma io prima perché stavi zitto? Perché per paura, solo per paura? È ovvio, ma uno c'ha 17 anni, minacciata la famiglia, ma che deve fare, scusami. Ma non so, magari c'era qualcuno che ti suggeriva di stare zitto perché... Ma no, io ho incontrato vari personaggi in carcere, continuo così e vai bene, penso sempre alla tua famiglia. E chi erano questi personaggi? I personaggi che transitavano entro i carceri, perché a carcere vengono pure dagli altri carceri per fare le cause o altre cose. Capito? Quante volte mi è capitato. Parenzo, che dici? No, quello che io non capisco, appunto, come uno che, voglio dire, è stato... Quanti anni in carcere alla fine? No, cioè, no. Una ventina l'ho fatti. Allora, 20 anni, ne aveva 17. No, 20 anni anche per altre cose è stato. Ne aveva 17 quando, se non ricordo male, 18. Ma 17. Uno che ha commesso dei crimini resta sempre un criminale dentro, Pino? Oppure può cambiare? Ma no, ma io ho lavorato 8 anni. Ma no, in generale, dicevo, in generale. Ma sì, può cambiare chiunque. Cioè, ti resta dentro qualcosa di no, qualcosa che ti porta magari sempre a delinquere? No. Ma difficilmente, penso, io mi vedo dei film e metto a piangere tante volte, su pure sei sceneggiati. Che film? Dei film quelli di. Ma i film normali, quelli che ti fanno pure piangere, pure il delfino che muore, cioè, hai capito? Ma tu per chi voti? Molti detenuti come me hanno l'animo sensibile. Magari chi per una cosa o per un'altra è capitato in carcere, ci stanno anche tanti innocenti, insomma. Ma tu voti adesso? Voti adesso? No, io sono interdetto dai pubblici uffici, mi hanno levato la patente, ma la carta d'identità non posso andare all'estero, ho fatto adesso no, non ho capito perché. Ma no. Quanto hai ancora da scontare? Sei fuori definitivamente per tutto? Sono fuori, però ho 2-3 cause in piedi, un omicidio colposo e un'altra causa. Omicidio colposo pure? Eh sì, ho fatto solo una sbatta, è morto un amico mio, pure là mi hanno caricato delle cazzate. Ma amico Veltroni, lasciamo perdere. Ma che ha fatto Veltroni, poraccio? Veltroni non mi fate di parolacce perché sono. No, dimmi. Veltroni ha asserito che io, tipo che ho fatto apposta l'incidente, perché amico mio che aveva rintracciato Marincola, era uno che stava all'idroscalo da ragazzino a 3 anni. Però non sa che a Marincola il giornalista gli ho presentato io, sono Olimpio Parocchi. No, non dire nomi che nessuno, non dire nomi che nessuno conosce. Questo come giornale, l'ho letto io. Perché te la pigli con Veltroni? Che ti ha fatto? Perché ha detto sta cosa, ma come si permette? Cioè ha detto una cosa falsa su di te? Ha detto che io sono una sbatte, c'è la fatalità, è Olimpio Marocchi che ai tempi del 75 stava al Diroscalo, ma c'era 3 anni. E comunque un giornalista glielo ho presentato io, se c'è qualcosa nasconde, noi glielo presentavo, no, evidente? Magari adesso diventa Presidente della Repubblica. Ma questi cavoli, se andasse a fossarsi. No, vabbè, dai, beh, Pino, dai, su. Ma è uno che si è battuto per la verità su Pasolini, dai. Molto. O no? Ma così dice lui. Beh dai, è bene, no, una volta hai fatto pure una conferenza stampa con lui, mi ricordo, hai fatto... No, sono entrato a sorpresa perché stavano dicendo molte cavolate. Ma tu non ho capito, adesso per chi voteresti, per esempio, dovessi votare adesso, per chi voteresti? Pannella. Ancora Pannella? Sempre Pannella. E Renzi non ti piace, Renzi? No, bravo, come no? Come non mi piace, sì. È forte, fa le cose, diciamo, attivo. Sì, è forte, speriamo che va avanti. Ma l'ultima volta che hai votato quando è stato? Non hai mai votato? Il Partito Radicale, stavo condannato ma non ero definitivo. Erano europei, Bonino o Pannella? Ma tutti i ex criminali, gente che sta lì, votano tutti radicali. No, ma sai perché? Sì, perché si battono per... gli unici che si occupano della questione carcere. Sì, che sì. Combattono, cavolo. Allora, io non ho capito, quanto siamo vicini secondo te alla verità su Pasolini? Facendo... L'85%. 85, cioè abbiamo, diciamo, il quadro dopo quello che hai detto tu. Adesso che cosa manca? Non lo so, mancheranno le ultime cose. Dato che la macchina è sparita, se vogliamo fare anche indagini. I mandanti? Chi manca? I mandanti? Sicuramente, mandanti, sicuramente. I mandanti. Ma io penso che lui sappia molto di più di quel che dice, ovviamente. No, lo vedrà la magistratura, ho visto un PM molto serio. Dici, sì. Ho visto serio, come no. Lui sa molto di più perché altrimenti non si sarebbe fatto tutto quel carcere a gratis. Sabrina da Roma, Sabrina. Sì. Dimmi. Cruciani, non ho mai aspettato un uomo così lungo in vita mia. Comunque, vabbè, senti, siamo due uomini. Siamo due uomini. In questo caso, sì. Hai ragione, è vero. Io, però, sono più d'accordo con te. Ero partita dal fatto cioè, io chiaramente sono romana, quindi sono avvelenata con questa storia del. Sì, perché poi magari ti mettono le tasse su qualsiasi cosa a Roma, ti aumentano le tasse locali. No, soprattutto posso dirti, e intanto c'è qualcuno che rapinava i soldi pubblici e li sprecava in quel modo. È uno schifo pazzesco. Esatto. No, ma ci abbiamo, allora tu considera una cosa, che in tutti i quartieri di Roma stanno nascendo comitati spontanei per pulire le aree verdi, per sistemare i parchi giochi. Perché c'è e intanto c'era qualcuno il responsabile del reparto giardini, eccetera, eccetera, che pigliava le mazzette e fa 500 forze. Naturalmente aveva 570.000 euro dentro l'armadio. Porcheria. Poi non solo, io adesso ti dico la verità, io lo commissarierei il Comune di Roma per un motivo, perché purtroppo Marino, a prescindere che non c'ha un minimo di piglio, e cioè in una situazione come questa ci vuole veramente una persona, vabbè, io sarò, non lo so, però io metterei uno tipo alla Bertolaso, cioè una persona, diciamo. Scusa, sì, vabbè, hai avuto i suoi problemi. Tipo Bertolaso, ha detto. Tipo Bertolaso. Sì, per carità, benissimo. Vabbè, allora. Chiaramente commissariando, cioè controllando tutti gli appalti, subappalti, eccetera. Io. Ma non c'è Cantone, scusa. No, per il Cantone, secondo me, si occupa di troppe cose, tra l'altro. Gli appalti di Milano, gli appalti. Un'autority apposta, voglio dire. Quindi. Vabbè, allora, Sabrina. Comunque, voglio dire, lo sai perché lo commissarierei il Comune di Roma? Per un motivo, perché nei bilanci, i bilanci erano scandalosi. Io ho un mio amico che è stato ex vicepresidente del Consiglio Comunale, vabbè, quindi lui queste cose le ha sempre seguite, e il fatto che venissero dati fondi così sproporzionati per i nomadi, per i rom, eccetera, puzzava troppo, quindi voglio dire, come si dice, il pesce puzza dalla testa, quindi va tagliato. Tra l'altro altri appalti a quella cooperativa sono stati dati anche durante questo anno e mezzo, poco più, di Marino. Questa cooperativa è riuscita a ottenere entrature anche con questa amministrazione. Poi ovviamente, ti ripeto, Marino magari non sapeva nulla, anzi sicuramente non sapeva nulla di quello che avveniva dietro le quinte. No? Il fatto stesso che non l'abbiano indagato mi pare abbastanza significativo. Ma no, ma io non sto parlando di Marino indagato per qualche motivo, sto dicendo semplicemente che c'è un sodalizio mafioso, sembra, che è penetrato all'interno del Comune di Roma, nei gangli del Comune di Roma, e che faceva affari con Alemanno. Ancora prima con Beltroni, e probabilmente li ha fatti, anzi sicuramente li ha fatti, e ha continuato a farli anche con Marino. Torniamo tra un secondo. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico no. Fai muovere la tua impresa. Scegli Pantera, l'IRP col TH. Vi presenta Strade in diretta. Il traffico resta intenso attorno alle principali aree urbane, in particolare a Roma, Milano, Firenze e Napoli. Nella capitale code per un incidente lungo il tratto urbano della 24 tra l'inizio Complanare e Torcervara verso il Grande Raccordo Anulare. Vi segnalo che per lavori dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina rimarrà chiuso la 3 Napoli-Salerno, nel tratto compreso tra San Giovanni e Napoli via Marina in direzione di Napoli. Ed è tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora. La Zanzara. La trasmissione è sempre la migliore. Allora, il nudo di Salvini. Il nudo di Salvini, qualche ascoltatore di Radio Padania non la prende benissimo. Quella rivista dove c'è Salvini nudo, piotto, con la cravatta al collo, no? Talmente è stata una cagata che non l'ho guardata neanche più di tanto. Salvini è nato nudo e a nudo si è presentato. Tutto ciò che nasce deve morire. Essendo nato è destinato a collassare. O prima o dopo si estinguerà. Grazie della segnalazione. Cose importanti, ci tocchiamo un po' tutti, che prima o poi ci dobbiamo estinguere. A proposito di nudi, come dimenticare l'intervento l'altro giorno di Valentina Nappi? Magari, dovete il tempo, energie, sì, farai testo tutti i giorni. No, la testa quella c'è sempre, perché comunque il testo è una delle, è la più grande passione della mia vita. I napoletani sono noiosi a letto. I napoletani ti deludono dal punto di vista sessuale? Mediamente sì, cioè, il napoletano c'ha proprio questo pallino, il fatto che lui deve scopare da napoletano. In realtà ce l'hanno anche un po' le ragazze napoletane, però i maschi ovviamente lo mostrano, lo sbandierano. Sì, un po' noiosi. Noiosi, noiosi a letto, mamma mia, che affronto. Taormina Nappi, grande confronto qui alla Zanzara. Ti volevo presentare una persona che si chiama Valentina Nappi, che è una famosa pornostar. Valentina? Ciao. Quello è il professor Carlo Tormina, il professor avvocato Carlo Tormina. Buonasera. Conosci buonasera. La signora Nappi? No, non la conosco, avrei piacere di conoscerla, ma non la conosco. È pornostar, allora, no, è una ha detto la signora Nappi ha detto che il suo sogno era essere penetrata da tanti uomini di colore in simultanea. Sì. Se ha questi sogni, io per carità prendo atto. La nostra amica certamente, tra l'altro è il suo mestiere quello di prenderne quante più è possibile. Ma no, adesso ma cosa dice? Non lo so. Ma non è questo mestiere. Ma non è vero. Sì, Valentina. Non è quello il suo mestiere, non fa la pornostar. Quindi allora, più film fa e più ne prende e meglio è. Se poi con una botta sua ne prende 4-5 meglio ancora. La teoria del professor Carlo Tormina, che non è del tutto, dal punto di vista economico, Parezzo, non è del tutto sbagliata. Ha brutalizzato, ma cioè più film fai e più prendi da quel punto di vista e più guadagni, dunque non è poi sbagliata la cosa, no? No, però è come l'ha detto, forse che è un po' fuori luogo, diciamo, però. Alberto, provincia di Savona, dai. Sì, ciao, devi dire forte e chiaro che è una vergogna assoluta quella di Derita. L'ho detto, ma Parenzo non... Ancora, devi ripeterlo tutte le sere, perché lui è stato uno dei saggi chiamati da Napolitano. È uno che tutti gli anni fa la morale agli italiani. Non su fa la morale, fa degli studi. Fa anche la morale. Non fa nessuna morale. È un modo di dire. Forza, lascialo parlare, dai. È una stupidità. Non sono tutti così acculturati come te. È il parere dell'ascoltatore che dice che ci fa la morale. E ha ragione. Fa la morale sugli studi che fa. Prende soldi pubblici. Non sta a casa sua, che può fare di suo figlio ciò che vuole. Questa è una sarebbe no, ma ha ragione lui. Sarebbe sbagliato anche lì, perché anche nelle aziende private dovrebbe essere premiato il merito e non intanto è una fondazione. È una fondazione che prende incarichi, che è stata riconosciuta dal Presidente della Repubblica con un decreto. No, allora, ma prende anche soldi pubblici. E prende soldi pubblici perché i suoi clienti sono soprattutto anche, come dire, ministeri, comuni, perfetto, province e quant'altro. Allora deve fare anche un concorso. Ma aziende private. Deve fare un concorso perché il suo pensiero che suo figlio sia il migliore di tutti magari non risponde alla realtà. E mi meraviglia Parenzo, perché non penso che sia una persona stupida. Ma poi comunque quando allora se uno ha un'azienda propria, io anche i soci che danno i soldi al Censis, anzi anche i privati che danno i soldi al Censis si dovrebbero incazzarsi. Certo. Perché appunto, se non si arrabbiano loro, no, ma magari non lo sanno, magari non lo sanno. Aspetta, questa cosa è successa da pochi giorni, per cui ancora non lo sanno. Magari copierà il putiferio su questo e no. Avete ragione. Io trovo che come non ci no, si no, ma come fai a non capire il fatto che uno non puoi mettere in un posto dove lavori tuo figlio, in un posto che non è tuo, non è suo, non è di proprietà tua. È una fondazione. Ma non è di tua proprietà. Ci sono dei soci, se c'è un consiglio d'amministrazione, se questi non hanno detto né a né ba analizzando il curriculum, così come avviene nelle grandi aziende private italiane, dove dinastie industriali, a torto o a ragione, lasciano lo scettro e la guida dell'azienda ai propri figli, spesso somari, non vedo dove sia lo scandalo della cosa. Ma sentiamo la risposta che ha dato, no? La ma risentiamo. Che fa la morale è una sciocchezza assoluta. Ma no, ma la morale è come dire, ci dà lezione su cosa è giusto, cosa è sbagliato. Ma come non dà lezione? Cioè, analizza la società, fa il sociologo, non fa la morale. Non è un prete. Mamma mia, sentiamo quanto Derita. Stupidi siete. Sì, beh, infatti se tu sei l'unico intelligente. No, però dite stupidaggini alle volte. Sì, secondo certo. Me. Hai perso ogni è tipo un sociologo. Di... Sì, ma hai perso ogni tipo di... sentiamo, dai, Derita. Giorgio Derita, appena nominato segretario generale e direttore generale del Censis, è suo figlio? Sì. Lei è uno dei fondatori della struttura, c'è un conflitto di interessi in questo? Non vedo il conflitto di interessi. Il direttore generale precedente è andato via, mio figlio ha un curriculum adeguato. non è che mio figlio è ingegnere, non aveva diritto di entrare al censo. Queste sono cazzate, brutalmente. È una persona che io ritengo di ottima levatura, che ha fatto la sua carriera, non è che è uscito dalla culla e è arrivato da noi. Si è fatto 5 anni di Bologna come amministratore delegato dei nomi, ma dove perché era suo dove figlio? Lo trovavo un altro che aveva fatto 5 anni già di direttore di ministeri di ricerca. Beatrice Firenze. Maremma Zinga da Giuseppe, si è mai fatto incazzare questa settimana. Sono la Beatrice, la trans del gruppo Riccardo da Roma. Dimmi, cara Bea. Allora, ascolta, io la scorsa settimana ho pagato l'acconto delle tasse. Sì. Non ti dico quanto ho pagato, molto meno di te, ma guarda, mi girano i coglioni a 2000. Mi hai fatto incazzare. Ma i coglioni, scusa, non ce l'hai più i coglioni. Sì, l'ho tagliato, vabbè, è modo di dire, dai, Giuseppe. Ho capito, però l'hai tagliato i coglioni. Sì, l'ho tagliato, mi girano anche quelli che non c'ho. Come hai fatto a tagliarti i coglioni, amica mia? Sono andata dal dottore e me le sono fatti tagliare. Ho visto la tua foto prima o dopo che hai pubblicato, Parenzo, la foto di Beatrice. Non guardo, non mi interessa. Ha pubblicato la foto prima e dopo l'operazione, una cosa impressionante. Non sei cambiata molto, Beatrice, non sei cambiata molto. Simpatico, grazie amore mio. Dimmi. Ascolta, non mi hai fatto incazzare perché questa settimana un continuo con questi rom, con queste persone che cazzo vogliono il lavoro, che vogliono queste cose, tutte vogliono essere pagati, soldi a destra, soldi a manca. Ti voglio raccontare quello che mi è successo questa settimana. Allora, sai che sono appunto una transessuale, no? Sì. Mi chiama il mio datore di lavoro, mi fa entrare dentro il suo ufficio, mi mette seduta davanti a lui e mi dice, Beatrice, la Filomena, che era quella, diciamo, non la segretaria, comunque una abbastanza importante a livello nella ditta dove lavoro io, dice, l'ho licenziata. E io sono rimasta anche male perché, insomma, un rapporto positivo con questa ragazza, eccetera. Vabbè, ma che è successo? No, l'ho licenziata perché metto te al posto tuo. Io, transessuale, è stata licenziata una persona, tra virgolette, normale, per mettere una transessuale e mi ha dato anche la promozione. Ora guadagno un po' di più, 300 euro di più, capito? Cioè, e poi questi mi vengono a dire, oddio, io come transessuale non trovo lavoro, il rom non trovo lavoro. Io, nella mia condizione, ho fatto sempre tutto a modo mio. Cioè, tu stai dicendo che quelli che si lamentano continuamente che non hanno lavoro, guardassero me che sono transessuale e non ho avuto nessuna discriminazione. È andata via una, ho preso il posto suo, godo come una matta adesso, godo come una matta, ho preso anche l'aumento dello stipendio, hai capito Giuseppe? Hai capito? E durante la settimana mi hai cagato il cazzo continuamente, meno male c'è la Nappi, che meno male, guarda, l'adoro la Nappi, perché a parte lei tutto il resto è stato uno strazio questa settimana. Faresti una bella storia con la Nappi, eh? Allora ti dico una cosa e poi ti lascio. Il Veronesi ha detto che la società mondiale sta andando verso la bisessualità, per cui apritevi tutti a questa cosa. Capito, Parenzo? Incominciate, come Parenzo, senti a me, Parenzo. Cara, non sono più caro. Se l'è tagliato. Veronesi ha detto che bisogna che l'umanità va verso la bisessualità, per cui apriti. Vogliamo parlare un po' di sesso anale. L'ha mai fatto sesso anale? Apriti un po' anche a queste cose. Vedrai se ti piacerà. Parenzo, ti ha fatto una domanda precisa. Ma sta parlando con me? Sì, certo. Ah, non avevo capito. Sì. Cioè, sesso anale dal punto di vista, da che punto di vista? Passivo o attivo? Scusami. Passivo, naturalmente. Passivo, non è il mio terreno, diciamo, però non è il tuo terreno. Sbagli. Beh, adesso questo, perché... però devo dire la verità su questa cosa qui, caro, cara Beatrice, uno non è che per forza se lo deve far mettere dietro, altrimenti non è evoluto. Caro lei, siamo tranquilli. Anch'io no, non... bisogna evolvere. evolversi, Giuseppe, dai. Ma io non me la voglio far mettere, scusa. Lo so che io non sono bella, che non ti piaccio, però le conosci transessuali belle. Provaci ad andare una volta e mi capisci, dai. Ma non voglio farmelo mettere in quel posto, scusami. Beatrice, vabbè, ciao cara. Sì. Ciao cara. Tu ti devi fare le punture di risanamento del cervello. Allora, ha chiamato il centralino incazzato come una bestia per quello che stai dicendo su Censis, Parenzo, l'amico Dino Giarrusso delle Iene. Ciao Dino, come stai? Benissimo, voi come state? Bene, cara. Allora, perché eri incazzato con Parenzo? Dimmi tu. Parenzo, io ti voglio molto bene, ma come fai a dire, a paragonare il Censis a una azienda privata? Cioè, ti prego. Ti prego. No, voglio dire, dai, solo a Londra, please. Please, Parenzo. È una società che dipende dal pubblico, perché tutti i soldi che prende o direttamente o indirettamente sono gestiti dal pubblico. Sono i suoi clienti. Gli altri consiglieri di amministrazione non hanno niente da ridire se quello piglia suo figlio. Amore mio, gli altri consiglieri di amministrazione, tu pensi che si mettano contro derita in una società come il Censis? Forse sul pianeta Plutone questo avviene, sul pianeta Terra, in particolare in Italia, non avviene, non è un buon esempio prendere tuo figlio come direttore lì dove l'ha preso, nella società che tu gestisci da una vita, lo ha preso. Soprattutto dicendo alla giornalista queste sono cazzate. Amico mio, lo ha preso nello stesso ruolo che ricopriva il figlio, forse anche lì qualcuno potrà dire chissà come c'è finito, di eccetera, chi? Per 5 anni a Bologna in un altro analogo. Ma che c'entra? Quella è la Nomisma, è un altro discorso, ma non vuol dire niente. Allora, adesso potete dire che è finito a Nomisma perché è amico di Prodi. Ma non lo so, non mi interessa questo, era Nomisma. Potete quello che volete. Fatto sta che il signor professor Derita, sociologo, che non è un filantropo, è un sociologo, è uno che dirige, fondato e dirige un istituto di ricerca, che ha avuto il merito di ricevere commesse, perché evidentemente non sono marchette, sono commesse che lo Stato, le regioni, le province, i comuni in tutti questi anni hanno ritenuto essere un ente affidabile, ha deciso, mica lui di imperio lo ha nominato così, io nomino te. Ma dai, smettila, David. Derita, ma smettila, ma è evidente che la nomina è voluta da lui perché è il padre padrone del Censis, ma guarda, non dire puttanate. Caso proprio il figlio, guarda caso. Una come mai? Secondo me ha ricevuto migliaia di curriculum e l'ha preso, guarda, l'ha estratto a sorte. Io credo l'abbia estratto. Io non riesco. No, ma le motivazioni, immagino le renderà note, o se gliele chiediamo, immagino che ce le dica, come ha fatto, non so se voi le Iene o non so chi ha fatto. No, il Fatto Quotidiano, no. Il Fatto Quotidiano.it, loro quotidiano. Sono in vacanza. Sì. Vabbè, sì. Ma comunque il punto fondamentale è questo, caro Parenzo. Ma la cosa non mi scandalizza, se è uno bravo non mi scandalizza, come non mi scandalizza che famiglie, intere dinastie di imprenditori nominano i loro figli. Ma non sono due cose diverse, quella è roba loro, quella è roba, non ce la facciamo, non ce n'è da fare. Io speravo che il mio intervento fosse utile. No, ma Giarrusino mio, niente. Ma io ti voglio, ma veramente ma bene. Ma che c'entra questa cosa che ti vuoi bene, che non c'entra niente, dai. Ti voglio bene davvero, cioè non è una stupidità, non è che ti voglio bene. Perché io ricordo sempre, io David Parenzo voglio bene a Marcello Dell'Utri, però quello era ironico. Devi sapere che Parenzo, che Giarrusso è un grande tifoso dell'ipotesi Nappi presidente della Repubblica, certo, Nappi premier. Nappi anche premier. L'Abbate, anche il signor Tommaso L'Abbate. Capito? C'è questa sorta di stai esagerando io, guarda, un po'. Premier magari proprio. No, ma premier... stai esagerando nelle interviste, perché oggi ho letto un'intervista al Fatto incomprensibile in cui dice che i finanzieri dovrebbero imparare qualcosa dal porno, ma qualsiasi cosa dice va bene, perché però scusami, Giarrusso, visto che gli altri visto che ci ha fatto la gentilezza di chiamarci Giarrusso, sì, con amore. Potrebbe Giarrusso Guccini potrebbe devo chiamare Guccini? Le res gesta del Censis, come la direbbe Guccini Giarrusso? Ma io credo che il presidente del Censis abbia fatto una grossa cazzata, caro Parenzo, perché voglio dire, se proprio devi prendere un ingegnere, prendi un altro, tuo figlio piazzalo da un'altra parte, te lo devo dire io. Io bevo 2 litri di Lambrusco al giorno, ma una cazzata del genere non l'avrei mai fatta, sia chiaro. Comunque, Parenzo che difende il familismo è una cosa pazzesca. No, tu difendi il familismo, lasciamo perdere. Intanto voglio far sentire. Il familismo tutt'altro, ma mi sembra una polemica idiota. In vabbè, caso. Idioti, siamo idioti, infatti, noi. Ti voglio far sentire Ferrero, che è una persona con cui Giarrusso ha a che fare. Adesso te rovino un po'. Ho lavorato, sì. Adesso ti faccio sentire l'ultima performance del presidente della Sandoria, che fa gli auguri a Crozza. Sentiamo. Stasera Ciao a tutti, buonasera, Massimo Nero, che adesso tra gli piedi si siede e dice tanti, tanti auguri al mio amico Crozza. Sono onorato di essere interpretato o malinterpretato, un po' ricoglionito. La vita è bella, Crozza, e me la voglio godere. Ciao Crozza, tanti auguri. Forza Sam. Io la cosa che voglio chiedere a Gianrusso, ma so che non mi risponderà, ma è così naturalmente oppure come dire, no, si aiuta un po'? No, allora non vedo perché non dovrei risponderti. Io dico sempre la verità. Se ti racconto anche un episodio, lui è, secondo me, c'è cascato da piccolo, come Obelix, cioè presente Obelix nella pozione, secondo, dove? Sì, secondo me lui c'è cascato da piccolo, perché che io sappia no, non si aiuta più. Oggi ho visto questo non filmato, si aiuta più, che io sappia no. Poi, dunque si aiutava, beh, che io sappia sì. Ecco, diciamo, no? Oggi l'ho visto che finge di essere ubriaco. Fa sì, finge di essere ubriaco. Sì, barcolla così. Però c'è una cosa che io, insomma, con le Iene abbiamo avvicinato in qualche modo, anche se per adesso, e siamo andati una volta a Genova e abbiamo trovato nello stesso ristorante Crozza e Ferrero. No. Sì, una cosa meravigliosa, che credo che Ferrero non abbia visto che ci fosse anche Crozza. No, è stato un momento Dunque non si sono incontrati. E credo di no, ma credo che la volontà sia stata di Crozza, perché l'ha visto che c'era lui, si è messo in un tavolino tutto isolato. Ma quando Ferrero è andato via presto, quando Crozza è andato via, mi ha visto vestito da Iena, quindi insomma si è messo un po' a chiacchierare, mi aveva riconosciuto, e ci ha detto delle cose che io purtroppo non posso riferire. No, perché non puoi dire di chi? Ma di chi? Non voglio prendere delle cose. Crozza di Ferrero o Ferrero di Crozza? Crozza, da tifoso della Samp, aveva qualche piccola preoccupazione sull'effettiva tenuta finanziaria, ecco, diciamo così, aveva, ma non perché lui non ci creda, perché è un grande tifoso della Samp e quindi vuole che la Samp vada benissimo, peraltro sta andando alla grande proprio, sì. E quindi ecco, però fa molto ridere, semmai potrà venire fuori quella cosa lì, farebbe molto ridere, ecco, Crozza che fuori dal, no, senza telecamera, parla di Ferrero, no vabbè, fa ridere ma tantissimo. Va bene, ciao Dino, a presto. Un ciao, abbraccio, ciao, un abbraccio, ciao. Ciao. Nuova soluzione per la Zanzara, nuova soluzione. Ci aveva querelato per diffamazione un professore di Villafranca Padovana, un professore di lettere in una scuola, Franco Damiani. Il motivo è presto detto, Parenzo. Questo Damiani era uno che se n'era uscito con delle frasi incredibili sull'olocausto, minimizzando, diciamo. Insomma, noi lo chiamammo e lui ha detto: no, ma io non voglio rispondere su questo. Noi abbiamo fatto dei commenti dopo, io addirittura ho detto che era un coglione. Insomma, da tutta questa conversazione che risale a un anno e mezzo fa circa, ci ha portato in tribunale come perdere soldi e come far perdere soldi al contribuente italiano ingolfando i tribunali. Dovresti pensarci anche tu quando dici voglio querelare qualcuno, cioè. Insomma, questo Damiani ci ha querelato per diffamazione. È finita male, però, è finita con l'archiviazione totale. Archiviazione totale. Antologia della Zanzara, Zanzarology. Zanzarology, Zanzarology. Antologia della Zanzara. Franco Damiani, il quale dice che in realtà non c'è nessuna prova storica che siano state usate le camere a gas per eliminare gli ebrei, cioè non ci sono state le camere a gas. Professor Damiani, buonasera. Buonasera, ma mi scusi, stiamo cominciando male. Cioè lei non ha detto una cosa del genere? Avevo chiesto espressamente che si parlasse di una questione specifica, quella che lei può chiedere quello che vuole, però poi qui ci siamo noi, caro professore. Comunque dica, di cosa bisogna parlare? Io sono un insegnante, non sono uno storico, le questioni storiche avete fior di storici a cui potete chiederle, a partire da Carlo Mantogno, e a me era stato detto che io venivo interpellato sulla questione specifica che mi ha visto protagonista. Allora, è vero o no che lei sostiene che... Allora, scusi, guardi, io non rispondo a queste domande, rispondo lei a non risponde su quello che mi ha cioè lei non risponde lei non risponde sul fatto che le camere a gas secondo lei non sono state usate per eliminare gli ebrei. Questo lo chiederete agli storici, io sono solo no a lei le sto chiedendo a lei, secondo lei le camere a gas io sono non sono stato chiamato per questo. Allora, leggo qui, Corriere del Veneto. Quel professore negazionista lasciato in cattedra, i sindacati non insegni, trasferito più volte, il provveditore non compete a noi, negli ultimi 8 anni il ministero lo ha nominato 4 volte presidente di commissione per l'esame di maturità. Questo leggo. Dunque c'è una polemica intorno al suo nome, giusto? Io no, guardi, Corriere del Veneto l'ho almeno letto. Io so quello che ho scritto io. Vabbè, lasci perdere adesso quello che ha scritto lei. Esiste questa polemica? Sì. Io sono stato chiamato per parlare di questo, non di quello che ha scritto il Corriere del Veneto, che io non ho nemmeno letto. C'era un programma precostituito per esterminare gli ebrei? Non rispondo a domande di questo genere, l'avevo detto chiaramente alla persona che mi ha interpellato. Ma non mi risulta. Glielo dico io. Non mi risulta. Non risulta a lei, lei mi sta dando anche del mentitore. No, del mentitore, non si tratta di menzogne, adesso non esageri. Giriamo la cosa. Come mai esimio professore, attorno al suo nome ogni volta si scatenano delle polemiche inenarrabili a causa di supposte stronzate che lei dice? Domande sul fatto specifico. Qual è il fatto specifico? Scusa. Lo sa benissimo. No, non lo so, lo dica lei. Nominato presidente di commissione al liceo Curiel di Padova. Sì. Nel programma di una classe ho trovato che gli studenti avevano partecipato a un laboratorio di storia intitolato Negazionismi, un problema storico e filosofico. Sì. In cui per quanto riguarda la Shoah c'era soltanto una relatrice, la signora Valentina Pisanti, che non è nemmeno una storica. Cioè, secondo lei io la facevo venire qui la Zanzara per parlare di questo fatto specifico? Voi mi avete chiamato, non ho chiesto io di partecipare. No, secondo lei lo so. Mi avete chiamato. Benissimo, ma secondo lei io la chiamavo. A me è stato detto che dovevo rispondere su questo e io su questo sono pronto a rispondere, non su altro. No, a me di queste cose qui del negazionismo può interessarmi ovviamente, però ci sono delle cose da spiegare alla base, cioè qual è allora la sua posizione? Buongiorno, ma lei è un professore di lettere. Traffico. Vabbè, questo qua è chiaro che è un coglione, Parenzo, eh? È evidente che è un coglione questo qua. Adesso mi querelerà, no? Cioè, ma è un coglione per come si è comportato, perché uno non può dire io non rispondo su queste cose, non rispondo a domande molto semplici, domande che peraltro per me sono scontate, no? Ma dov'è adesso il professore? Che ha fatto? È scomparso, sì, è scomparso. Scomparso il professore, perché non ha coraggio di metterci la voce e la faccia su quello che dice il nostro professore. Zanzarologi, antologia della zanzara. Beh, quando all'epoca dissi ci porterà in tribunale, effettivamente così ha fatto. Però l'abbiamo tirata. Però il signor Damiani è uscito con le ossa rotte da questa vicenda. Rotte. Amerigo, provincia di Chieti, vai. Buonasera. Dimmi. Intanto vorrei dire una cosa. Parenzo, sei cascato così in basso, guarda, se ti incontro ti rompo il culo, va bene. Ma che vuol dire, Amerigo? No, non è una minaccia, cioè... non è una persona... Sì, ma parla, leva la con la cosa, l'auricolare, qualcosa, Amerigo. Non ho l'auricolare. Il viva voce, qualcosa, dai, Amerigo. Non ho sentito cosa detto. Sto lavorando, sto in fabbrica, ti farei godere, Parenzo. Allora, volevo dire un'altra cosa. Non ho capito cosa ha detto. Che ti vuole rompere il culo. Non ho capito cosa ha detto. Che ti vuole rompere il culo quando ti incontra. Forse, così. Siccome sono a Londra, la comunicazione. Non ho sentito cosa ha detto. Che cosa vuoi fare, Amerigo? Non ho capito. Vabbè, poi Parenzo, fatti dare il mio numero, mi telefoni. Sì. Allora, io certo che ve lo faccio dare. Per la politica romana. Anziché alza la voce, avvicinati alla cornetta, non sentiamo, vai. Anziché il metodo di Giorgio di Genova, io farei un'altra cosa. Li metterei nei forni crematori. Li farei bruciare, farei grasso per i cingolati che lavorano, le macchine operatrici che lavorano nelle discariche delle immondizie, perché questi sono dopo 20 anni. Lo che sai fogna. Perché? Che fogna! Noi abbiamo perso nella nostra città un ragazzo di 20 anni. un ragazzo di 20 anni per un tubo. Non ho capito chi mettere. Non ho capito chi metteresti. Un male incurabile. Ma che c'entra? Lo Stato italiano, la sanità non ha soldi da investire. E quando invece voi porci politici. Ma voi chi? I politici. Ma che vuol dire i politici? Le persone che rubano. Tu che cosa faresti con questi? Li metteresti dove? Nei forni crematori, ne farei grasso per i cingoli. Ovvio, ci deve essere la prova di chi è e chi non è. Però se c'è la prova li metti. Aspettiamo 20 anni, se... come il ministro della sanità che ha dato sangue infetto e ha fatto morire la gente. Ma aspettiamo 20 infetto? Anni. Vabbè, comunque, Amerigo, non ho capito, tu li metteresti nei forni crematori? Sì, perché non c'è, sta gente non c'è, non fa il bene del paese, non fa il bene. E quando lei, Cruciani, quando parla di Matteo Salvini, e lo stesso il suo collega lì, allora... sciacquatevi bene la bocca, perché io mi auguro che arrivino subito queste persone che ci tirano fuori da queste fogne di politica che vediamo e viviamo. Parenzo, goditi Londra e vai anche contemporaneamente a fare Inc. Così. Per divertimento, capito? Divertiti, eh? Ci rivediamo lunedì. Sì, sì. Forse. Sì. Ciao ragazzi, ciao. Maremma Zingara Giuseppe si è mai fatto incazzare questa settimana. Sono la Beatrice, la trans del gruppo Riccardo da Roma. Ciao caro. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.